gente, nella folla sei presente, ti avvicini piano piano, ma tu sei sempre lontano, chiudo gli occhi un solo istante, tu non ci sei più. Come penso in un deserto, tra la gente del concerto, io che canto, lui che suona, ma non sento una parola, nella mente mi è rimasto quel tuo volto che è scomparso. Tu chissà come ti chiami, tu chissà se mi ami, tu che sei nella mia mente come una stella sempre splendente. Per caso ti ho afferrata per la mano, ti ho guardata, mi hai guardato, un saluto hai sussurrato, ci allontaniamo piano piano, poi ti dico che ti amo. Ho sperato in un ritorno per amarti un altro giorno, per averti a me vicino, ho lottato col destino e sussurrandomi il tuo nome.